Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 4 maggio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere e bentornati a Liberi Dentro ed Uradio. Siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, qui con me. Ciao Caterina e buongiorno a tutti e a tutti. Allora Antonella, devi sapere che a Torino quest'anno il Salone del Libro ha fatto incontrare autori e detenuti dal Ferrante a Porti a Re Bibbia. Leggo questa notizia di Manuela Marascio su torinooggi.it perché con il Salone del Libro è stata inaugurata la nuova edizione di Adotta uno scrittore, dove sono state coinvolte ben 19 scuole, ma non solo, anche le carceri. Con questa 19esima edizione di Adotta uno scrittore, questa iniziativa di promozione della lettura del Salone del Libro sostenuta dall'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte in collaborazione con la Fondazione con il Sud, sono stati coinvolti quest'anno 37 autori che saranno adottati per l'appunto da 19 scuole, 8 scuole secondarie di secondo grado e 6 secondarie di primo grado e 5 primarie, e anche 2 università e 13 scuole carcerarie di 8 regioni italiane. Le regioni sono queste, oltre a Piemonte, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Il progetto approda per la prima volta anche nel Lazio, alla casa circondariale Raffaele Cinotti di Re Bibbia. E infatti aumenta il numero delle scuole carcerarie coinvolte anche a Torino, Biella, Saluzzo, Alessandria, Novara, Asti, quindi tantissime scuole carcerarie, CPA metropolitani coinvolti. Beh, è un'iniziativa fantastica, francamente, anche proprio l'idea di adottare. Adottare significa prendersi cura di qualcuno, no? E si potrebbe dire quindi che leggere in carcere sia un diritto? Assolutamente sì, e questo risultato ve lo volevo proprio raccontare da una ricerca condotta dal gruppo Calamandrana per la trasparenza e l'umanizzazione in carcere, che conduce questo laboratorio al carcere di San Vittore, e ha fatto una disamina sulla lettura a partire proprio dalle testimonianze dei detenuti stessi. Vi volevo leggere proprio qualcosa. Un detenuto dice: la lettura in carcere è un diritto. E questo detenuto, citato con la lettera M maiuscolo, quindi lo ringraziamo, dice: leggere in carcere può apparire un'impresa difficilissima per chi non è abituato, ma è solo un'apparenza o semplicemente una scarsa importanza che noi detenuti diamo a leggere. E poi lancia una sfida ai detenuti suoi concellini, ma anche alla società esterna, e dice: vorrei permettervi di lanciarvi una sfida, non importa il tempo che ci metterete, ma leggete il libro 1984 di George Orwell e riflettete se vale la pena di restare ignoranti o sforzarvi un po' di più per acquisire ogni giorno un po' più di conoscenza. La lettura in carcere ha l'impegno di voler cambiare ignoranza con conoscenza, noia con piacere, saper discernere il bene dal male. Io ci sento molta saggezza in queste parole e immagino che in carcere ci siano vantaggi e svantaggi anche proprio nell'approcciarsi alla lettura. Tu che ne pensi? Certo, perché la lettura è qualcosa di molto intimo, per la quale serve anche del silenzio, devo dire, almeno per me, quando leggo ho bisogno di silenzio accanto. Ma infatti sempre questo gruppo Calamandrana, al carcere di San Vittore, ha fatto una ricerca sui pro e contro della lettura. E i contro, sempre raccogliendo le testimonianze, mi colpisce questo di un detenuto che dice: qui noi siamo carne da macello, come ti può aiutare un libro? Neanche questo. Oppure: la lettura di un libro ha utilità solo a livello personale e a livello giuridico nessuna. Oppure qualcun altro che dice: io con un libro non ho un contatto, quindi cioè non riesce a sentirsi vicino nella lettura anche a se stesso. Oppure qualcun altro che dice: io qui non riesco a concentrarmi, cioè pensiamo al rumore assordante, quindi la difficoltà nel leggere. Però ci sono anche dei pro, cioè delle cose favorevoli. Per esempio, qualcuno scrive: leggere ci fa pensare in altro modo. Il pensiero è libero, pensare non è vietato, leggo perché voglio uscire con una testa pulita. Oppure, ancora più bello, leggere ci rende liberi, per puro piacere. Io potrei aggiungere una cosa, Caterina, che leggere ti consente di vivere mille vite diverse e questa è una libertà che abbiamo tutti, conviene quindi approfittarne. Oppure, come cita uno dei miei poster più belli che ho attaccati nel mio studio, leggere ti consente di vedere il mondo 1500 volte diverse. Ma ora lanciamo un brano sempre della nostra Janis Joplin. Oggi vi faccio ascoltare Peace of My Heart. del 1968, Pezzi del mio cuore. Eccoci, bentornati dopo la pausa musicale con Janis Joplin. Siamo sempre su Liberi Dentro e Eduradio. Antonella, siamo nel periodo di Ramadan, per l'appunto, questo fino al 12 di maggio. E allora io ti chiedo, siccome stai studiando un po' il caso, se c'è una dieta giusta in questo periodo. Eh sì, Caterina, siamo in un periodo in cui teoricamente il digiuno dovrebbe portare al dimagrimento, ma questa cosa non va sempre in questo senso. Infatti, sul Jordan Times ho trovato un articolo di un dietologo giordano, appunto, Amani Omar, che suggerisce dei trucchi per poter avere una buona salute e soprattutto sfruttare nel modo migliore il periodo del Ramadan. Il mese di digiuno è molto energizzante per il metabolismo. In effetti ci sono, anche al di fuori del Ramadan, molti dietologi internazionali che lo suggeriscono e aiuta a perdere peso, di solito stimola la crescita di nuove cellule, migliora l'equilibrio ormonale e aumenta la chiarezza mentale, oltre a dare una forte energia. In realtà aiuta anche il cuore perché riduce il rischio di disturbi cardiaci e cronici, oltre ad essere molto utile proprio per avere un certo equilibrio alimentare. Dicevi però all'inizio che ci sono alcune discordanze sul fatto che il digiuno durante il mese di Ramadan faccia realmente dimagrire. Eh sì, sembra un po' paradossale, ma è così. Lo stesso professore Omar dice che molte persone gli chiedono proprio questo: perché durante il Ramadan prendiamo peso e praticano il digiuno tutta la giornata, però lui sostiene che dopo il tramonto ci si scateni un po' troppo, mettiamola così. Quando si interrompe il digiuno, infatti, c'è un aumento del consumo di zuccheri, di dolciumi, di cibo fritto, grasso e pesante. Saranno manicaretti squisiti, però mangiati tutti i giorni per un lungo periodo magari possono dare qualche, insomma, piccola conseguenza non piacevole. E secondo Omar, infatti, è molto importante essere consapevoli di quello che mangiamo. E poi un'altra cosa, un consiglio che dà: non bisogna assolutamente saltare il pasto dell'alba, il cosiddetto suhoor, perché è molto importante per dare energia e idratare il proprio corpo e prevenire quel forte senso di appetito che può insorgere durante la giornata. Bisogna quindi assumere fondamentalmente cibi nutrienti, fluidi, privi di grasso preferibilmente o comunque in genere poco pesanti. Ma quindi Antonella, anche per dare un'indicazione a chi ci ascolta dalle camere detentive, ma non solo, alla cittadinanza che sta celebrando questo mese di Ramadan, cosa sarebbe meglio mangiare? Ma cose in realtà molto semplici, dalle uova sode in estate alle angurie, formaggio halloumi, yogurt greco, prodotti caseari, frullati di frutta e verdura anche. Molte persone invece fanno l'errore proprio di interrompere il digiuno con cibi già molto pesanti. C'è un'altra dietologa che si chiama Shaima Taha, sempre giordana, che suggerisce di ricominciare a alimentarsi dopo la giornata di digiuno con cibi sempre leggeri e lei dice gentili col nostro stomaco, proprio al fine di aiutare il nostro apparato digerente a rimettersi in movimento. La dottoressa infatti consiglia di interrompere il digiuno con un dattero, che procura prima di tutto un'immediata risorsa di zucchero, quindi di energia, e quindi dà un po' di carburante al nostro corpo, oltre a delle fibre che aiutano anche il senso di sazietà. Però non bisogna dimenticare l'idratazione, quindi durante la giornata è importante assumere dell'acqua, bisogna idratarsi, soprattutto quando fa molto caldo. Dopo il famoso dattero si può cominciare ad assumere dell'altro cibo, tipo delle zuppe, insalate, qualcosa pian piano di sempre più sostanzioso. Diciamo che bisogna avere l'accortezza di essere equilibrati, ecco, questo è il suggerimento che ci danno tutti i dietologi, proprio perché altrimenti il Ramadan diventa invece un momento di sovraccarico del nostro organismo. Grazie, chiarissimo. Hai dato dei consigli in realtà validi anche per chi non è musulmano e quindi chi non fa il Ramadan, in realtà, perché sono cibi che possiamo trovare tutti. E quindi è il momento di lanciare un brano musicale a metà della nostra puntata. Eh sì, voglio lanciare il brano del famoso Idir, si chiama Avava in Uva. Eccovi, bentornati su Liberi Dentro, sempre per il nostro spazio sulla salute con l'equipe sanitaria del carcere della Dozza. Buongiorno a Agnese Drusiani e rieccoci con noi. Ciao, buongiorno. Con te, Agnese, abbiamo veramente fatto una carrellata di argomenti, dal chiedere come accedere ai servizi sanitari quando si arriva in carcere, anche per i nuovi giunti, la prevenzione dal Covid, cioè quali sono i comportamenti corretti da tenere a mente e anche praticare, le tossicodipendenze, e adesso parliamo delle visite specialistiche, in particolare di quello che è il servizio psichiatria all'interno dell'equipe sanitaria del carcere. La figura dello psichiatra è una figura molto importante, che è presente nell'equipe, dal 2009, quando l'ASL è entrata dopo il varo della riforma che ha affidato il servizio sanitario regionale, l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari. E quindi ti chiederei un pochino di presentarci che funzioni ha la figura dello psichiatra e come funziona la presa in carico da parte dell'equipe sanitaria. Allora, intanto ci tengo a spiegare che da noi non ce n'è solamente uno, ma sono in realtà sono numerosi gli psichiatri che compongono l'equipe della salute mentale, che gestisce la salute mentale all'interno del carcere. E diciamo che il loro è un profilo di presa in carico, cura, trattamento e riabilitazione dei disturbi, appunto, delle patologie legate alla salute mentale in generale. E da noi chiaramente sono una figura assolutamente molto importante e centrale per la salute delle persone recluse, diciamo. Per quanto riguarda l'accesso e la presa in carico, fare una distinzione, come forse abbiamo fatto un po' anche l'altra volta sulle tossicodipendenze, perché c'è una differenza. Se uno entra dentro, se una persona una volta che è arrivato un nuovo giunto era già in carico sul territorio, lo dichiara e chiaramente per continuità delle cure viene preso in carico poi dopo dallo psichiatra che lo vedrà subito inizialmente, verificherà la terapia e continuerà il monitoraggio per tutto il tempo necessario. Le persone che invece non sono già, diciamo, in carico, sia all'ingresso, ma poi per tutto il tempo durante la detenzione, possono esplicitare le loro fatiche e i loro problemi con il medico di base, che poi dopo valuta e richiede la visita specialistica. A quel punto, dopo il primo colloquio, il primo consulto che viene fatto dal medico psichiatra, lo stesso valuterà se la persona necessita effettivamente di un percorso intero o se aveva bisogno un po' in quel momento e di rivalutarlo in un futuro se dovesse di nuovo avere bisogno. Certo, e entrando un po' in una questione un pochino più delicata, cioè il fatto di rendersi conto da soli nell'autoconsapevolezza di averne bisogno o rendersene conto per altri, come funziona? Come si accede al servizio? Allora, è bella questa domanda perché l'ho fatta io alla dottoressa inglese all'interno di una delle nostre interviste dei laboratori, proprio sul fatto che sia importante riconoscere alcuni sintomi di quando non si sta bene, no? E diciamo che da noi quelli più frequenti che ci vengono riportati sono spesso per esempio l'insonnia, quindi il non dormire la notte è già comunque un elemento che da portare e porta attenzione dal punto di vista psichiatrico. Se ci si sente in ansia, chiaramente, quindi anche molto agitati, e l'ansia spesso non la sappiamo collocare, quindi non c'è un oggetto specifico, e allora abbiamo bisogno di parlarne con qualcuno che ci aiuti. Quando ci sentiamo molto giù di morale, no? Quando ci sentiamo molto tristi, lo dico, cerco di dirlo in maniera un po' semplice, e anche questo può essere per diverse ragioni in realtà. Potrebbe essere per motivi personali, potrebbe essere per cose che sono successe, per vicende giudiziarie, dipende un po' dai momenti. Anche in questo caso vale assolutamente la pena parlarne col medico di base o se si è già in carico anche direttamente col proprio medico psichiatra. Grazie Agnese, e ora come al solito ti tocca lanciare un brano musicale. Allora, per rimanere in tema, io lancerei Enex Anax di Samuele Bersani. Ascoltiamola. Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana, trapiantata a Roma, e lui un figlio di puttana, ormai disoccupata. Enex Anax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di medicina amara e chiodi di garofano. Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca e poi glieli leggeva, seduto sopra un cofano. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. E rieccovi, bentornati su Liberi Dentro dopo questo brano musicale di Samuele Bersani. E, Agnese, è stato ed è ancora un anno molto particolare, questo segnato dal Covid, e naturalmente è una situazione che già nella normalità siamo tutte persone un po' in ansia per vari motivi, ma questa situazione sanitaria genera ansie in particolare, quindi se una persona avesse dei dubbi, avesse voglia anche di chiedere qualcosa per mettersi tranquillo, anche togliersi dei timori, come può fare anche quando è in carcere? Chiaramente questa è una cosa che noi capiamo molto bene e alla quale in questi mesi abbiamo cercato di dare un po' risposta anche in momenti di piccoli gruppi o essendo presenti nelle sezioni per e dare chiarimenti sulla situazione in continua evoluzione. È chiaro che se una persona nello specifico e singolarmente avesse dei dubbi, delle domande, delle paure, delle preoccupazioni, noi ci siamo sempre, quindi le può tranquillamente riportare al medico, all'infermiere di sezione e a me quando ci incontra, e si può valutare se sono domande molto molto specifiche, anche proprio di provare a dare delle risposte anche di un esperto, se ci sono, anche perché questo è un tema molto caldo, cioè dove ci sono risposte noi le diamo, cerchiamo di darle, e altrimenti appunto direttamente con noi cercando di, con i nostri medici cercando di mettere un po' un filo, di radunare le idee su tutte queste mille informazioni che arrivano tutti i giorni e che ci confondono moltissimo. Penso ad esempio al tema della vaccinazione, che è caldo per tutta la popolazione, lo è anche all'interno del carcere. Per qualsiasi tipo di domanda io invito comunque a farcela, poi dopo noi daremo le risposte che ci sono e che sappiamo, perché siamo i primi a doverci aggiornare continuamente rispetto a quello che ci viene detto. Certo, questo della vaccinazione è un tema caldo, infatti tutte le mattine è capitato, lanciando le notizie di cronaca bianca, più volte è stato riportato questo appello da parte della senatrice a vita Liliana Segre, come anche di Mauro Palma, il garante nazionale dei detenuti, a veramente investire sul fatto di dare a tutte le persone detenute, metterle nella fascia prioritaria per l'accesso al vaccino. Ma questo chiaramente è per anche la ristrettezza, il fatto di vivere troppo attaccati, il fatto che il carcere non sia certamente il luogo, adatto per garantire quella distanza di sicurezza minima, no? No, non lo è. Sicuramente ci sono delle problematiche di tipo ambientale che non aiutano, come per tutte le malattie infettive, ed è una cosa che noi diciamo tutti gli anni. Io credo che la vaccinazione all'interno del carcere sia importante e debba essere prioritaria, altrettanto però credo che nel momento in cui arriverà ci si dovrà vaccinare, e quindi per poterlo fare sappiamo anche che dovremmo arrivare con delle informazioni molto chiare, perché poi lo scetticismo, come c'è fuori c'è anche dentro, e la paura c'è dentro, è assolutamente. Quindi anche su questo invitiamo come sempre ad esprimere le paure in modo che se ne possa parlare, perché l'occasione del vaccino è una grande occasione, quando arriverà non andrà sprecata. Grazie Agnese, chiarissimo. Adesso ti saluto e ti saluto con un brano musicale dedicato alla città, siccome Liberi Dentro parla sempre tra la città e il carcere, allora lancio Jovanotti, Chissà se stai dormendo. 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale. Quando rinunci ai comportamenti da fotomodelle e mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle. Quando mi dici dai spegni la luce che mi vergogno. Quando sei lì che ti trema la voce, a me mi sembra un sogno. Ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. E questa notte, questa città mi sembra bellissima. Ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. Questa notte, questa città mi sembra bellissima. Chissà se stai dormendo. Maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? E ci salutiamo anche oggi dopo aver ascoltato la nostra Agnese Drusiani e ci ridiamo appuntamento tra poco con la rubrica del giorno Oggi parliamo di, che sarà a cura del Teatro Argine. Quindi tra poco su Lepida, mentre alle ore 17 su Teletricolore. Vi ricordo sempre di scriverci se avete delle domande, dei dubbi, anche delle richieste, cose che possiamo affrontare grazie ai vostri spunti, redazione Liberi Dentro, @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna, indirizzato a redazione Liberi Dentro. E ringrazio il nostro tecnico Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate, vi ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono e ci ascoltano già e la mia collega di redazione Antonella Cortese. Buona giornata e ci rivediamo domani. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.